sono sempre qui a difendermi, a combattermi. Mi passano l'età cercando sempre più la luce dentro noi. Questa via fa parte ormai di me, non l'abbandonerò. E sono sempre qui a difendermi, a combattermi. Barriere di plexiglass, intangibile ad ogni attacco ed al tempo. Io vedo a sorriso.